avait des yeux d'opale qui me fascinaient, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme bail, ça fait déjà un femme bail. Oggi vorrei parlare di Zingari, senza girarci tanto intorno, senza fare grandi premesse. Vorrei parlare del problema degli zingari. Pare sia un grosso problema, ma è il più grosso dei nostri problemi, o semplicemente è considerato a noi tale perché li vediamo, perché addosso agli zingari si legge in maniera inequivocabile quello che loro sono, quello che loro stanno facendo. Siamo divisi fra un flusso continuo di notizie che ci vengono anche da altri paesi, la Francia, l'iniziativa del presidente Sarkozy di rimpatriare i Rom, qualcuno ha parlato di una sorta di deportazione, fino al problema quotidiano, la piccola cronaca spicciola di tutti i giorni, i piccoli episodi, piccoli, grandi e medi episodi di criminalità, altro tipo di allarme, l'allarme delle condizioni igieniche, l'allarme degli incidenti frequentissimi, incendi, improvvisamente si prende sempre fuoco una roulotte, un campo, una baracca, rimane qualche bambino dentro morto, bruciato. Tutto questo insieme si va affastellando sul nostro immaginario individuale, sulla nostra esperienza. Io sono un grande frequentatore di metropolitane romane, in pratica tutti i giorni prenderò almeno due volte la metropolitana in un percorso che attraversa il centro cittadino. Ancora non sono arrivati, ma tra un po' arriveranno. So benissimo che in ogni vagoncino della metropolitana entrerà un piccolo gruppo estemporaneo dove col passare del tempo, col passare delle settimane, dei mesi, ci sono le impercettibili variazioni di format. Può essere una signora che canta con una base registrata che porta con un carrellino a rotelle, può essere un gruppettino pseudo folk, può essere una ragazza che si butta per terra con un bambino in stato catatonico e racconta sempre una storia lacrimevole, sempre la stessa. Osservo e mi piace, una volta facevamo l'anno scorso una trasmissione sui format dei mendicanti, in questo sono molto fantasiosi. Io ricordo che l'ultima versione era che aveva un marito a cui erano saltate le gambe con una mina antiuomo e quindi doveva andare a comprare il latte per il bambino, ma poi ne sappiamo tante. Tutto questo fa parte, si appoggia, rinfocola e conforta il nostro senso di discriminazione, che in questo caso molte volte, devo dirlo, è inutile nascondersi dietro le ideologie o le pretese, vuole essere migliore di quello che si è veramente. Si dice, beh basta, non ne possiamo più. Quante volte vedo le zingarelle che prendono d'assalto gli Umarell e le mogli degli Umarell dentro le metropolitane, Umarell sempre di etnia straniera, francesi, inglesi, tedeschi, anche molto giapponesi, e gli saltano proprio addosso alle fermate della metropolitana, gli strappano gli zainetti. Ho visto Umarell con le ciabatte prendere a calci le zingarelle, ho parlato con le guardie che stanno sotto la metropolitana, mi hanno detto cose terrificanti, non possiamo fare niente, entrano da una parte, escono dall'altra, ne prendiamo uno e immediatamente c'hanno gli avvocati che li difendono. E su questo si è creata una pubblicistica in parte corroborata da episodi reali, in parte aumentata da una sorta di immaginario individuale che corre come parole di passo e diventa una verità. Io questa mattina avevo messo 10 minuti fa l'annuncio sui profili Facebook miei di questa trasmissione sul fatto che avrei parlato di zingari, e ho visto immediatamente rappresentato nel microcosmo delle persone che mi seguono attraverso Facebook tutto quello che vi ho appena anticipato. Subito mi dicono, ma da che parte la farai questa trasmissione? Farai il moderato o il moderatore? Mi dice Massimo. Un'altra signora dice, preferisco non commentare, ne avrei troppe da dire visto che da sempre vivo con il loro accampamento vicino a casa, macchine da 120-130 mila euro, portafogli pieni e non lavorano. L'importante, mi dice un'altra persona, che se ne faccia una difesa ipocrita. Chi li vuole se li porti a casa sua. Ora, non lasciatevi condizionare dal tono della mia voce, non date interpretazione a quello che dico. La mia è una posizione assolutamente neutrale. Ho espresso quello che è il mio punto di osservazione degli zingari e vorrei capire qual è il vostro, con il supporto di personaggi che hanno studiato il problema, che conoscono perlomeno in maniera oggettiva cifre, numeri, episodi e situazioni. Cercheremo questa mattina di parlare di ciò di cui è sempre difficile parlare, appunto gli zingari. La bimba inglese, la ricorderete, scomparve improvvisamente in Portogallo. Ora il tabloid britannico pubblica una lettera scritta dal pedofilo Raymond Hewlett, nella quale l'uomo rivela una serie di particolari. Ero in Portogallo quando un mio caro amico zingaro mi raccontò di aver rubato Maddie per conto di terze persone. Abitano tra il fango e le lamiere delle auto dismesse e di auto, ne hanno pure di grossa cilindrata. Zingari dell'ex Jugoslavia, ma ricchi, proprietari di conti correnti bancari, di beni mobili e immobili per un valore di 1 milione di euro adesso sotto sequestro, dopo il blitz dei militari del ROS e dei carabinieri che alle prime luci dell'alba sono entrati nell'insediamento rom del Casilino 900 alla periferia di Roma, il più antico campo nomadi della capitale e uno tra i più famosi d'Italia. Gli indagati muovevano fino a 300.000 euro per volta anche su conti esteri. I pregiudicati portavano il denaro in banca ammassato in grossi sacchi neri della spazzatura. 800240024, questa mattina parliamo di zingari. Mi aspetto esperienze dirette, esperienze personali, punti di vista, osservazioni, ma con l'attenzione a riferire semplicemente, candidamente e tranquillamente quello che è il vostro punto di vista. Non mi servono interpretazioni, non mi servono nemmeno la richiesta di soluzioni. Io faccio questo mestiere dal 1984. Mi sono anche occupato in maniera molto stretta di cronaca, giravo l'Italia, facevo reportage, quindi non c'è stata stagione in cui si affrontasse il problema degli zingari, il problema dei rom, il problema dei campi nomadi, il problema del recupero, il problema dell'integrazione. Beh, in tutti questi anni io non ho ancora trovato risposta, le domande sono le stesse, sono identiche rispetto a quelle che mi facevo 20-30 anni fa. 800240024. Un bel campo di merda ci hanno dato subito. Un bel campo di merda ci hanno dato. Come, hai capito? Come la tende? Come la tende? Va a vedere te. Vedi come te. Sta là. Vedi con te. I serpi, va vedi a vedere te. Cosa sta mia madre? 24 su 24. E la vogliono mandare su nelle tende che sono 50 gradi di temperatura, fa caldo. Muore, lo sai che cosa vuol dire muore se va su? Ecco, questi sono, diciamo, i due punti estremi attraverso cui si snoda la problematica rom, che ripeto non è il più grosso problema che dobbiamo affrontare ogni giorno, perlomeno può essere il più grosso problema per le persone che abitano in zone ad alta densità di campi nomadi, quello sì, lo ammetto. Entrare in un campo nomadi, non so se mi è capitata questa esperienza, è una situazione terribile, sembra impossibile che degli esseri umani possano vivere all'interno di una realtà civilizzata come la nostra, in cui alcune condizioni di igiene, di convivenza, di quotidiana maniera di usufruire di servizi sono abbastanza condivise, in quella maniera. E naturalmente se ne sentono poi le conseguenze nei momenti di contiguità, di promiscuità. I zingari dentro gli autobus, dentro le metropolitane puzzano, si sente, c'è un odore insopportabile. Questo fa parte del fatto che vivono in condizioni subumane, ma questo accade da decenni, questo non è mai cambiato. Gli zingari hanno dei bambini piccolissimi che sono in stato, come ho già detto, di totale catalessi. Non so se sia vero che danno ai bambini i Rohypnol per farli dormire, perché così almeno non infastidiscono e fanno una maggiore pietà. Fatto sta che tanto se ne è sentito parlare, viviamo in un paese in cui la salvaguardia l'infanzia è uno dei problemi principali. Dopo la mezzanotte i nostri bambini non possono apparire in televisione, non si può fare pubblicità con i bambini, bisogna stare attenti ai bambini, sono un sacco di associazioni che salvaguardano i bambini dalla cattiva televisione, ma non vedo qualcuno abbia mai provveduto a quei bambini, che anche loro sono bambini, che molte volte li vedo appoggiati sui marciapiedi insieme ai topi che camminano, al gas di scarico delle automobili. In Francia il presidente Sarkozy ha fatto un'operazione che ha destato grande clamore, grande scalpore, anche grandi consensi. Ha cominciato a rimpatriare, a rimandare verso i territori di origine, quindi la Bulgaria e la Romania, quei Rom che fossero stati colpevoli di episodi che sotto un profilo penale li rendeva appunto non più desiderabili in Francia. Sono iniziati questi rimpatri anche incentivati, perché in realtà se andavano tra virgolette su base volontaria, con un contributo di 300 euro ogni adulto, 100 euro per ogni bambino. Su questo, naturalmente, visto sul problema di Zingari, poi si innesta sempre l'ideologia, si innesta sempre da una parte l'esposizione dei buoni propositi, l'esposizione della lotta all'intolleranza, dall'altra parte le più bieche e le più bestiali intolleranze possibili, e su questo naturalmente si è articolato un dibattito che non su questo piano mi piacerebbe in qualche maniera ricomporre in questa trasmissione. 800240024. Siamo a 30 km da Parigi, una strada sterrata ci porta al centro di un ammasso di campero immondizia, senza fogne, acqua o riscaldamento. La luce la rubano collegandosi con mezzi di fortuna alla rete elettrica della città. Siamo in uno dei pochi campi rom abusivi ancora in piedi in Francia. A fine luglio il governo di Nicolas Sarkozy ha inaugurato una nuova politica del pugno di ferro contro gli zingari come risposta ai disordini avvenuti a Grenoble a seguito dell'uccisione da parte della polizia di due giovani rom. L'obiettivo principale è smantellare entro novembre più della metà dei 600 campi abusivi presenti nel paese e rimpatriare chiunque venga trovato in posizione irregolare. Stefano Trasatti, buongiorno. Buongiorno. Stefano Trasatti è direttore dell'agenzia di informazione e redattore sociale, che probabilmente è l'unica in Italia che si occupa di sociale. Lavora da tantissimi anni in questo settore. L'ho chiamato oltre per le sue competenze perché siamo amici, ci conosciamo da tanto tempo. Avrei potuto chiamare rappresentanti di grandi istituzioni che si occupano del problema Rom, ma siccome ho trattato per troppo tempo con queste persone, vorrei un punto di vista cronachistico, obiettivo, non inquinato poi dalle convinzioni, dalle ideologie, dalle premesse. Ti ricordi, Stefano, noi 20 anni fa circa venni dalle tue parti, nelle Marche, a fare un servizio su una famiglia Rom che si era integrata. Mi ricordi più o meno qual era la situazione? Sono passati tanti anni. Sì, era un gruppo di Rom, sì, era un'unica famiglia con vari nuclei, che si erano fermati in un paese della costa marchigiana, Porto Sant'Elpidio. E siccome erano parecchi, erano una cinquantina, e si sono fermati in un'area che non era un campo, si sono semplicemente fermati lì, intorno c'erano le case, e questo ha cominciato a creare problema. Ci sono stati dei comitati e si è ripetuta tutta quella serie di passaggi che siamo abituati a vedere, i cittadini che protestano perché questi alla sera semplicemente cuocevano l'arrosto e l'odore arrivava alle loro finestre perché erano sporchi. In realtà non facevano nulla di male, nessuno aveva avuto da dire su furti eccetera, semplicemente la vista che offendeva, e poi ci sono stati gruppi che li hanno difesi. Alla fine, dopo circa un anno e mezzo, questa vicenda si è chiusa, loro se ne sono andati via con il comune che ha cercato dapprima di dare una soluzione, il classico campo attrezzato, degli strumenti per vivere un po' meglio. Ecco, la scena era molto classica. Ecco, però Stefano, se non ricordo male, erano più di 20 anni fa. Era esattamente l'89, esatto. Ecco, diciamo, era nel microcosmo della provincia marchigiana, esattamente quello di cui si sta parlando in questo momento, dell'effetto Sarkozy, l'istituzione più estesa e più importante, ma c'è sempre qualcuno che vuole allontanare, qualcuno che impugna l'allontanamento come un oltraggio alla libertà di circolazione, ai diritti, via dicendo, e quindi ci ritroviamo a fare sempre lo stesso ragionamento. Tu che ti occupi di sociale, quindi della questione Rom te ne sei occupato, mi sai dare un tuo punto di vista personale, proprio corroborato da queste decine di anni di cui ti occupi del problema? Ma penso che bisogna essere molto freddi quando si parla di Rom, nonostante i Rom siano da secoli, da almeno sei secoli che i Rom sono in Europa, e la loro origine risale anche prima, è un po' misteriosa. E nonostante siano, diciamo, una specie di punching ball dove esprimere la nostra intolleranza è un soggetto molto debole, su cui sembra lecito esprimere tutte le discriminazioni e tutto l'odio possibile, come se fosse una specie di compensazione alle nostre insoddisfazioni. Diciamo che è un problema su cui è facile sentirsi tanto buoni e sentirsi tanto cattivi, parlare molto di Rom. Facile, esatto, è molto facile. Ecco, invece bisogna essere molto freddi. Intanto a partire dalle dimensioni, noi siamo tanto impauriti da questo fenomeno come se fosse un'invasione di Rom. Se andiamo a guardare le cifre, la popolazione Rom in Italia corrisponde allo 0,2% della popolazione, e di questa, qui parliamo quindi di tra i 100 e i 140 mila soggetti, i Rom problematici, cioè quelli che vivono in campi più o meno attrezzati, in campi abusivi, quelli che creano, tra virgolette, problema, non sono, secondo me, più di 50.000. Ecco, è di questo che stiamo parlando. Però ad una divisa è una, diciamo, un alone sensoriale attorno a loro che li rende percettibili. Se dicessi qual è la percentuale, che ne so, dei malfattori in Italia, è molto più alta, ma non li vedi, quindi ti danno meno fastidio. No, ma poi li vediamo sotto casa, quindi più visibili di così sarebbe impossibile. Quindi è questa la loro caratteristica, li vediamo passando sotto i ponti, li vediamo guardando dai ponti, li vediamo dalle nostre case. Quindi è una popolazione molto visibile, però sono 50.000 persone, di cui metà sono bambini, sono minori comunque, sono sotto i 15-16 anni. Queste sono le statistiche. Quindi parliamo di una popolazione estremamente, con tutti i problemi, con tutte le, diciamo, le caratteristiche culturali che ci possono disturbare, per esempio il modo in cui trattano le donne è difficile da sopportare, il modo in cui trattano i bambini è tutto da discutere, perché li trattano male quando li portano a elemosinare, ma non è il loro concetto dell'infanzia. È molto interessante da guardare. Beh, oddio, io quello che vedo sono strumenti da lavoro, i figli, quello che si vede. In quei casi sì, quello che si vede, ma se si va un po' se si entra un po' in contatto con delle famiglie rome e si vede come trattano i bambini, insomma ci sono delle cose su cui riflettere. Ecco, fermiamoci solo un secondo, Stefano, perché voglio sentire subito due ascoltatori, così apriamo un po'. Simone, buongiorno. Salve, buongiorno, dottor Nicoletti. Io volevo limitarmi a riportare un'esperienza da cronista che ho avuto una ventina d'anni fa nel campo nomadi di Forte Antenne, che credo non ci sia più. Mm-hmm. Ero uno studente, stavo così in compagnia di un amico a ripassare alcune cose durante l'università e niente, ci venne la balzana idea di avventurarci nel campo nomadi che si trovava lì a poche centinaia di metri. Allora, a parte la bella scena di Mercedes e Porsche a perdita d'occhio, mi ricordo la cosa che ci impressionò fu questo gruppetto di una ventina di bambini da 5 a 10 anni che con un'accetta si divertivano a fare tiro a bersaglio contro un tronco d'albero. Beh, lo facevo anch'io questo, Io no, sinceramente. L'ho fatto fino quasi all'età adulta. Io non l'ho fatto, io tiro con l'arco, io mi diverto a tirare con l'arco, per carità. No, le sto dicendo che mi colpì però l'idea di questi ragazzini non supervisionati da adulti che giocavano con delle accette. Ammetterà che un minimo di, insomma, per carità, ammetterà che qualcosa di incauto almeno ci sia, sì, io almeno ai miei figli non, io non consentirei. Trovo che non sia questo, adesso se dico una parola in più mi dicono subito. Guardi, lei aveva chiesto così esperienze da cronista. Io quando sarà il momento insegnerò ai miei figli a tirare l'accetta contro un albero, se potrò. Nulla di male. Niente, nell'arco di come ci notarono, i bambini ci hanno circondati e niente, io per fortuna mi ero portato appresso solo un mazzo di chiavi, ho faticato a tenerlo, siamo stati circondati, le mani dappertutto, e comunque questi bambini avevano ancora in mano l'accetta, i bambini comunque non... Lei pensava di diventare bersaglio. Bene, siamo, eccola, devo dire che di lì, da là non ho più voluto ripetere l'esperienza del campo nomadi. In effetti bisogna dire che sono un po' diversi da certo. quello. Su questo non ci piove, la diversità è il primo motivo per cui ne parliamo questa mattina. Vedo che siamo già arrivati alle 10.30, quindi devo lasciare velocemente la linea alle informazioni della borsa, 800240024. Per la seconda parte daremo voce ai nostri ascoltatori su quello che loro vedono, sentono, immaginano e suppongono nel mondo di Zingari, e sentiremo anche altri ospiti. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. I Rom sono cittadini europei e quindi devono avere gli stessi diritti degli altri e chiaramente gli stessi doveri. Io non sono fatto guerra a nessuno per dire richiudo la porta, io sono quelli più deboli, sono magari dei ladri, sono dei chiedono elemosina, fanno delle piccole cose. Perché è impossibile risolvere il problema dei Rom senza il coinvolgimento degli Rom stessi. Questo è uno stralcio preso da una manifestazione che c'è stata quest'ultimo sabato a Roma, Campo dei Fiori. Sembrava che i Rom dovessero andare a manifestare sotto appunto l'ambasciata francese, ma in realtà c'è stato, dice che erano più centri sociali presenti che i Rom. Questa volontà di integrazione così feroce da parte dei Rom, sinceramente non ho mai avuto, perlomeno personalmente, modo di percepirla in maniera così palese. In realtà la caratteristica stessa del Rom è quella di non integrarsi, di difendere appunto la sua diversità, il suo specifico. Velocemente, visto che stavamo al telefono con Stefano Trasatti, so che deve andare via, su questo ultimo problema, Stefano ricordo direttore di Redattore Sociale, che è un'agenzia di informazione sociale, problema della volontà di integrarsi. Vedo anche messaggi che mandano tutti su Facebook, che chi non si integra deve andarsene, loro non si vogliono integrare. Sì, è vero Stefano, in realtà il Rom tipico di cui abbiamo probabilmente un'immagine tra il romantico e il non realistico non è una persona che vuole diventare esattamente come le altre persone che lo circondano, o sbaglio? Ma i Rom sono molto gelosi della loro cultura, ma questo non vuol dire che non vogliono integrarsi. Intanto bisogna vedere che idea abbiamo noi dell'integrazione, cioè devono essere solo loro a integrarsi con noi, o almeno dovremmo fare un piccolo sforzo di comprensione della loro cultura, perché bisogna metterci anche questo. Però al di là del discorso integrazione sì, integrazione no, ci sono proprio delle esperienze che testimoniano che delle politiche con un po' di coraggio si possono fare. Fammi un esempio in Italia, così per capire una politica che trovi che affronta in maniera corretta il problema, anche perché noi parliamo, come tu hai già detto, dei Rom che ancora vivono nei campi, ma la stragrande maggioranza degli Zingari in Italia vivono dentro delle case, o sbaglio? Sì, infatti, la stragrande maggioranza vivono nelle case e non danno nessun problema, non sono visibili, fanno i loro lavori, alcuni sono precari, alcuni stanno meglio, mandano i figli a scuola, si nascondono perché se dicono che sono Roma non riescono a avere né lavoro né casa né niente. Al di là di tutti i luoghi comuni, di quello che si dice, delle politiche un po' frettolose che vanno per la maggiore, la soluzione a mio parere, ma non è il mio parere di chi se ne intende, non sono i campi. Non, da un campo fatiscente passare a un campo attrezzato in cui magari c'è l'asfalto, c'è un rubinetto dell'acqua e ci sono dei lampioni, non è quella la soluzione. La soluzione è la casa. Ora, si potrà dire, ma perché io devo dare la casa ai Rom che non mi hanno dato niente, che sono persone... È chiaro che il primo pensiero che viene alle persone, come prima cittadini italiani, poi questi che non fanno nulla, rubano e via dicendo. Questo, te riassumo subito l'impressione che potrebbe dare questa cosa. Infatti, però quando vi dicevo che bisogna essere un po' freddi, allora dobbiamo decidere, questo dal punto di vista politico, vogliamo risolverlo questo problema? Allora la strada è questa, bisogna creare dei percorsi, però questi percorsi non durano un mese, non è che io li sgombero, li porto in un campo attrezzato e ho risolto, ho dato una risposta immediata, emozionale. Durano un po' di più, durano 2 anni, 3 anni, non costano molto perché c'è chi ha fatto dei conti e hanno calcolato un'esperienza molto interessante in Lombardia, che un percorso di 2 anni, 2 anni e mezzo per trovare casa in affitto, non regalata, e il lavoro a una famiglia rom costa intorno ai 10.000 euro all'anno, quindi mi sembra che sia una spesa assolutamente... Naturalmente parliamo sempre di persone che poi non svolgono attività illecite, perché non è che poi hanno la casa per riempirla di refurtiva, che sono cose che accadono anche nei campi, chiaro. No, io dico tutto questo facendo salve tutte le situazioni di illegalità, che sono moltissime. Nelle situazioni ordinarie questo è l'ordine delle cose. Allora, o si decide di investire qualcosa, e non è molto rispetto alle spese sociali in Italia, per risolvere questo problema, oppure con i campi noi continueremo sempre ad averlo. Magari risponderemo lì per lì, o addirittura con le espulsioni, come ha fatto Sarkozy, a un bisogno emozionale, a uno scopo non confessato ma molto chiaro, no? Che a volte è elettorale, a volte è di consenso immediato. È chiaro che chi sta vicino tira un respiro di sollievo quando vengono allontanati, poi il problema si riapre, di solito diventano sempre più periferici, poi si va nei paesi degli hinterland, qualcuno protesta ma qualcun altro tira un sospiro di sollievo, si sposta, è come fare il gioco dei quattro cantoni, si sposta il problema ma alla fine rimane sempre lì. E ti ringrazio Stefano, so che tu hai un impegno, ti lascio, sentiamo qualche ascoltatore. Nadia, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, io sono qui in Italia da 48 anni, vengo da Belgrado, ex Jugoslavia. E voglio dire questo, che noi, quando ero piccolo, noi andavamo regolarmente a scuola con bambini zingari, che erano puliti, ma i genitori lavoravano, sanavano ristoranti, lavavano le strade, smistavano posta in uffici e lavoravano, non a matrimoni suonavano tutto quanto. Io penso che bisogna anche distinguerli, guarda. Sì, lei sta parlando però di una situazione di 40 anni fa in un altro territorio, nella ex Jugoslavia. Sì. In cui 40 anni fa c'era anche un regime abbastanza non certo tenero nei confronti, diciamo, delle uscite dalla regola, quindi... Ma eravamo tutti quanti sotto regola, però non venivamo rapinati lungo le strade, non veniva, uno poteva portarsi la borsa come gli pare, tutte queste cose, zingari certo, rubacchiavano, questo... Allora, vediamo se riusciamo ad avere però un quadro un pochino più attuale, perché stiamo parlando di situazioni decenni fa. Attuale, ecco, io Zagan, sentiamo Zagan, scusi un attimo, Zagan, buongiorno. Pronto, buongiorno. Lei è rom? Sì, io sono rom, sono qua in Italia da 30 anni. Ci dia lei allora un punto di vista diverso da quello che noi. Io capisco subito, sono della Serbia, giù, io vado spesso in Serbia, sono qua e vedo le due cose. Volevo solo dire che in Italia ci sono, come tutto il mondo, ci sono bravi e ci sono anche cattivi. Purtroppo questa è la verità. Ci sono quelli che lavorano, ci sono quelli che non lavorano. Certo che la maggioranza è quelli che non lavorano, ma volevo dire che... Ecco, ma voi che lavorate, che tipo di atteggiamento, di punto di vista avete nei confronti di quelli che rendono la vita difficile anche a voi? Che però mi sembra un problema talmente grosso e talmente ormai radicato che non è certo risolvibile con delle soluzioni lampo. Certo, ci dà fastidio anche noi. Io sono, per esempio, stato adesso in Serbia per le ferie, no? Anche là c'è semafori, tutte le cose, tutto. Ti dà fastidio perché quando uno è integrato dice ma passano sempre, sai, ti dà fastidio, ma... Diciamo che le questioni semafori, mendicanti... Sì, anche in Serbia è così. Sì, sono gli aspetti... Così, te lo dico 10 giorni fa. Chiaro, sono gli aspetti coloriti che suscitano subito il risentimento dei cittadini. Ma le operazioni in cui sono spesso collegati anche i rom in Italia sono anche di tenore un po' più grosso. Non si giustificherebbero molte volte il passaggio così consistente di beni di consumo che passa per le loro mani, si parla di altro tipo di attività, di cui poi naturalmente avremo modo nell'ultima parte della trasmissione di darvi una perlomeno informazione, anche se con la necessità di essere superficiali dato il tempo a disposizione. Melog 2.0. Io sono addetto, sono malata, proprio scema. Io mi brucio, io vado alla strada, se metto sono lontano ospedale, poi moriamo. Cioè, se sono nomadi che non danno fastidio possono stare da tutte le parti, però se sono nomadi che devono vivere per alle spalle nostre o rubando o tutto quanto, bisogna trovare una sistemazione lontano. Dando la possibilità pure a loro di vivere bene, eh? Comunque il problema è che va risolto. Poi se sono nomadi quelli che girano con l'X5, con l'SLK, con macchinoni di lusso, voglio fare il nomade pure io. 800240024, sto ascoltando e sto in una fase ormai della vita in cui si cominciano a tirare le somme delle proprie attività anche professionali. Raramente un argomento professionalmente trattato mantiene sempre le stesse linee di sviluppo attraverso i decenni, come quello degli zingari. Si dicono sempre le stesse cose, il punto di vista cambia a seconda delle esperienze individuali. Sono pieno di messaggi su Facebook di ragazzi, ragazze, signore e signore che frequentano i campi, vanno ai mercatini, hanno gli amici, salutano, sono gentili, e altri al contrario, hanno avuto la nonna zoppata, il nonno rapinato, hanno visto cose terribili. A seconda dell'esperienza personale naturalmente cambia anche il punto di vista. Nicola Salomone, buongiorno. Buongiorno, dottor Nicoletti. Nicola Salomone è ispettore di polizia, psicologo da 24 anni, ha lavorato alla squadra mobile di Napoli. Quindi lei avrà, sia per la collocazione geografica, sia per l'esperienza e la professione, un quadro concreto, oggettivo, di quello che accade realmente rispetto al rapporto tra nomade, chiamiamoli più nomadi che nomadi non sono più, tra zingaro, che è il termine più comprensibile a tutti, e cittadino che si reputa una persona normalmente civilizzata. Ci dia qualche numero, qualche esempio, qualche frutto della sua esperienza. Ma guardi, io tenterei innanzitutto iniziare il discorso dalla delittuosità. Per quanto riguarda la categoria di reati che ha un'incidenza maggiore, specialmente nella provincia di Napoli, che è pari quasi al 62%, sono i furti semplici aggravati. Di furti, un 40% si riferisce a furti di autoveicoli, e mentre un 7-8% si riferisce a furti in appartamento. Quindi le famose automobili di lusso di cui sempre si parla e tutti sì, vediamo, sono rubate praticamente. Certo, però voglio dire, detto questo, che sono dati insomma abbastanza inquietanti per quanto riguarda i furti, anche quelli in appartamento, che mettono come dire in subbuglio anche un aspetto intimo della persona, perché ovviamente chi entra in casa mette a soqquadro un po' tutto, e ci si sente anche come dire defraudati proprio di quelli che sono gli aspetti più intimi e particolari. Lì c'è uno specifico professionale, vero, nel furto d'appartamento, ragazzini sì, molto ben addestrati, capaci di salire anche sulle grondaie per arrivare ai piani alti, cose del genere, o ma anche diciamo questo è leggendario? No, ma ragazzini, ma anche persone comunque adolescenti, adulti fanno questo, perché purtroppo voglio dire, se una società relega nei ghetti delle persone e senza diritto di cittadinanza, quindi ovviamente senza poter avere l'opportunità di inserirsi nel campo del lavoro, ovviamente questi per sbarcare il lunario, per mettere un piatto a tavola, qualcosa devono fare. Con questo non giustifico il reato, però voglio dire, la società dovrebbe adottare comunque dei sistemi da fare in modo che questi soggetti riescano ad integrarsi. Ecco, lei ha osservato nel suo lavoro, Nicola Salomone, anche un'escalation, è cambiato qualcosa? Ci sono delle attività rese più specifiche, si parla di sfruttamento della prostituzione, che sembrava qualcosa che non appartenesse perlomeno alla cultura, all'etica, alla romantica visione dello zingaro, o altri reati come l'usura, per esempio. Mi pare che ci siano delle zone in cui è specifico anche questo esercizio, la ricettazione o via dicendo. Allora, diciamo che l'usura è praticata molto di più a Roma, dove ci sono zingari comunque che hanno dei capitali consistenti e praticano l'usura, tant'è vero quelli che circolano per strada sono diversi da molti che frequentano le zone dei campi Rom di Mugnano e di Arzano, della zona provincia di Napoli. Però voglio dire, per quanto riguarda la prostituzione, se questo avviene sicuramente non con le donne che appartengono alla loro, diciamo, ai campi o alla loro etnia, ma ragazze che comunque vengono dall'est dell'Europa, però voglio dire, non è tanto gestita dai nomadi. Qui o non da, sono specifici, nella massa no. Di attribuzioni delittuose non c'è proprio, oltre diciamo, il furto d'appartamento. Così come anche non è d'uso, cioè insomma, lo spaccio delle sostanze stupefacenti, oppure la gestione di un traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Quindi non c'è stato un cambio di qualità nelle attività delittuose degli Zingari in generale? Ecco. Ma grosso modo no, anche perché non hanno molto movimento, cioè nel cambio, perché giustamente ci sono, specialmente in Italia, zone che sono controllate dalla camorra, dalla mafia, dall'andrangheta, che non danno spazio per poter gestire cose di questo non genere. Non si possono muovere più di tanto. Più di tanto, anche perché non sono ramificati, non sono, non hanno una potenza economica e, come dire, militare che possa fargli prendere piede anche in questi settori. Quindi loro al massimo possono avere un controllo del territorio sui mendicanti ai semafori. Io ho visto spodestare dei signori nordafricani perché devono andarci quelli con il cappotto e i piedi nudi che ci portano lì gli Zingari, quindi su questo un po' di controllo ce l'hanno almeno. Sì, sì, su questo sì, anche sulle metropolitane spesso si assiste a delle liti tra gli stranieri, perché gli Zingari insomma vogliono avere il predominio sull'accattonaggio nelle zone, sia nelle stazioni che sui treni, perché comunque ogni soggetto riesce a portare a casa spesso dai 50 ai 60, 70 euro al giorno. Cioè, voglio dire, tenuto conto che sono 5-6 persone per famiglia che vanno in vari punti della città, insomma, a fine giornata portano a casa oltre 200-300 euro. Ecco, lei nella sua attività professionale sarà più volte andato nei campi. Qual è la situazione nei campi? Guardi, come dire, è una situazione bruttissima, ma non tanto per il cattivo odore, ma proprio perché nel loro modo di vivere, vivono nella sporcizia, ci sono questi pentoloni messi così sul fuoco che cucinano, cioè diciamo non c'è un minimo di igiene nei campi, però ci sono anche alcuni soggetti, quelli giovani, quelli più pimpanti, che comunque vestono griffati, con giacche di pelle, vestiti insomma, pantaloni... Sì, diciamo che l'ultima generazione, anche nelle metropolitane, è piuttosto mimetizzata. Oggi non sono più vestiti con i vestiti tradizionali, ma si vestono nella maniera più impersonale possibile, poi probabilmente per operare meglio poi delle loro attività. Lei si è mai domandato, adesso al di là del ruolo professionale, come mai questa realtà è rimasta così indelebilmente uguale a se stessa nei decenni? Poche realtà nel nostro paese sono rimaste immutabili, come quella appunto del cosiddetto problema degli Zingari. Si è mai domandato il perché? Sì, ma vede, noi negli anni 60 il Ministero della Pubblica Istruzione stipulò una convenzione, cioè, non so se si ricorda, per le classi speciali, no, per gli Zingari. Poi ovviamente questa, negli anni 80 fu abolita questa convenzione, perché ovviamente si è tentato di dare un qualcosa per farli emergere e quindi per farli mettere, come dire, al passo con il paese ospitante, però evidentemente è così radicata in loro questa forma di vita, cioè una cultura proprio che non si riesce a far cambiare. La ringrazio Nicola Salomone, siamo arrivati alla fine e ridò l'appuntamento tra 20 anni, sarò ancora vivo a riparlare degli Zingari e a ridire sempre comunque le stesse cose. Ringrazio Valerio Rocchetti, Fabrizio Intonti, a domani. Alors tous deux on est parti dans le tourbillon de la vie, on a continué à tourner tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.